Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Commercialisti vicini alla Lega e domiciliari, Salvini sono onesti, ho fiducia nei PM, ma per il GIP l'accordo corruttivo è provato. Istat, crollo dell'occupazione nel secondo trimestre, si sono persi quasi 500.000 posti di lavoro. Emergenza coronavirus, Conte, dobbiamo avere fiducia nella ripartenza, siamo più avanti di altri paesi. In Francia, attesa per le decisioni del governo, in arrivo misure più restrittive per contrastare l'aumento dei casi. Motori accesi in Italia, al via le prove libere di Formula 1 a Monza e della MotoGP a Misano. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Partiamo con l'inchiesta che lambisce la Lega di Matteo Salvini, che reagisce dicendo: conosco due dei tre arrestati, sono persone oneste, dubito che abbiano fatto qualcosa di sbagliato. I tre commercialisti finiti ai domiciliari sono coinvolti nella compravendita di un immobile da parte di un ente della regione a un prezzo gonfiato. Questo è il sospetto dei giudici, sentiamo. L'accordo collusivo per il giudice era approvato. L'obiettivo, drenare soldi pubblici, e l'ambizione dei tre commercialisti della Lega, arrestati nell'inchiesta sull'acquisto della sede di Lombardia Film Commission, era di farne 1000 di operazioni. La prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70, si dicono intercettati Michele Scillieri ed Alberto Di Ruba ai domiciliari insieme ad Andrea Manzoni. Si erano infatti rivelati inferiori alle previsioni i guadagni sulla compravendita di un capannone a Cormano nel Milanese dopo l'erogazione di fondi regionali. Una complessa operazione immobiliare per pilotare l'appalto, riuscendo a realizzare un'evasione, secondo l'accusa, attraverso 19 assegni spariti in Svizzera, come aveva ricostruito il primo arrestato a luglio, Luca Sostegni. Il gruppo beneficia di incarichi di rilievo tuttora ricoperti, avverte il GIP Giulio Fanales, ricordando i ruoli da direttore amministrativo e contabile del gruppo parlamentare della Lega di Di Ruba e Manzoni, che ai PM non aveva parlato dei trasferimenti di denaro, scrive il GIP sul suo conto personale. Conosco due delle tre persone, sono oneste, ma ho fiducia nella magistratura, il commento del leader della Lega Matteo Salvini. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. I dati economici ora nel secondo trimestre dell'anno, a causa dell'emergenza coronavirus c'è stato un ulteriore crollo degli occupati in Italia. Secondo l'Istat si sono persi quasi 500.000 posti di lavoro. Di positivo c'è il rimbalzo nel terzo trimestre dell'anno per quanto riguarda il PIL stimato da Confindustria. Numeri prevedibili quelli messi nero su bianco dall'Istat, ma che fotografano l'impatto del lockdown e più in generale dell'epidemia da Covid sulla nostra economia. 500.000 di posti di lavoro persi nel secondo trimestre dell'anno rispetto ai primi tre mesi del 2020 ed oltre 800.000 sul 2019. I più penalizzati, i giovani e i dipendenti con contratto non superiore a 6 mesi, e i lavoratori autonomi, in calo all'8,3% il tasso di disoccupazione, ma come spiega l'Istat è legato all'aumento dell'inattività dovuta alle prolungate chiusure. Il 2020, commenta il ministro dell'economia Gualtieri, è ancora segnato dall'impatto della pandemia, ma il nostro paese è pronto a ripartire. Le misure messe in campo dal governo finora ci ha visto mobilitare 6% del PIL per interventi a sostegno dell'economia, hanno garantito risultati importanti. Gli ultimi dati, commenta però Confindustria, porterebbero ad un terzo trimestre con una risalita del PIL del 9%, a fronte di un crollo dei primi 6 mesi del 17,6%. L'attività resterebbe quindi molto sotto i livelli pre-Covid. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo dei dati del contagio di coronavirus in Francia e in Spagna. Si parla ormai apertamente di una seconda ondata. C'è attesa per oggi per le decisioni del governo francese su misure più restrittive. In Israele invece torna il lockdown. In Francia l'Eliseo non esclude lockdown mirati e circoscritti a livello locale. È una delle ipotesi sul tavolo del Consiglio di Difesa in corso in queste ore, che deciderà una nuova stretta sulle misure anti-Covid, soprattutto nelle aree metropolitane, per frenare l'impennata dei contagi. 10.000 nelle ultime 24 ore. Situazione critica anche in Spagna, dove l'ultimo bollettino di ieri segnala oltre 10.700 nuovi positivi. E torna a sfiorare quota 3.000 l'incremento giornaliero di contagi nel Regno Unito. Altre due settimane di lockdown sono state decise in Israele. La misura sarà convalidata dal governo domenica. Nel mondo i nuovi casi intanto hanno superato quota 28 milioni, secondo i dati dell'Università Americana Johns Hopkins. Il paese più colpito restano gli Stati Uniti, dove Trump si difende dalle accuse di aver nascosto la gravità della pandemia. Sul Covid-19 dichiara: "Non ho mentito, ma ho detto di non cedere al panico". A seguire gli Stati Uniti, l'India, che ha registrato oltre 96.500 casi e 1.209 morti. Terzo paese più colpito il Brasile, con oltre 40.500 casi e quasi 1.000 decessi nelle ultime 24 ore. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo all'Italia. La scuola è il posto più sicuro di tutti in questo momento, così la ministra dell'istruzione Azzolina rassicura a pochi giorni dalla riapertura. Martedì si deciderà anche sulla possibilità di abbreviare la quarantena, intanto però il numero delle persone contagiate in Italia sta crescendo. Guarda al futuro e parla di ricostruzione del paese il Premier Conte alla presentazione del libro blu delle dogane. Il lockdown ha rappresentato una prova particolarmente ardua. Oggi però possiamo con fiducia attendere all'opera di ricostruzione e di rilancio del paese. Fiducioso anche il ministro della Salute Speranza, che dice: da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere, i comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali. Sul fronte dei dati si registrano 1.597 nuovi contagi in Italia, in aumento anche la terapia intensiva, sono 164 le persone ricoverate, 14 in più di ieri. Intanto martedì il Comitato Tecnico Scientifico si pronuncerà sulla possibilità o meno di ridurre a 10 giorni la quarantena, ma il ministro della Salute Speranza è cauto e vuole verificare, dice, di quanto potrebbe aumentare il rischio contagio se l'Italia decidesse in tal senso, rischio contagio che aumenterà per certo, dicono gli esperti, già con la riapertura delle scuole da lunedì. Intanto l'Associazione Nazionale Presidi parla di carenza di circa 5.000 aule e almeno 2 milioni di banchi. Per quanto riguarda le mascherine, fino a ieri le scuole ne hanno ricevute 41 milioni, entro lunedì ne verranno consegnati altri 77 milioni, ha rassicurato il commissario per l'emergenza Arcuri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel Materano sono scattati gli arresti per una brutta vicenda di violenza nei confronti di due turiste inglesi minorenni. Sono ragazzi tra i 19 e i 23 anni, quattro arrestati per la violenza sessuale ai danni di due turiste minorenni inglesi in una villa nei pressi di Pisticci, in provincia di Matera, avvenuta durante una festa di compleanno la notte del 7 settembre scorso. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino. Si tratta di Michele Masiello, di 23 anni, Alberto Lopatriello, di 22, Alessandro Zuccaro, di 21 e Giuseppe Gargano, di 19 anni, tutti disoccupati e residenti a Pisticci. Le accuse a loro carico sono di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e continuate. Oltre ai quattro arrestati già trasferiti in carcere, altri quattro giovani hanno partecipato alla violenza sessuale di gruppo. Tre di loro sono indagati in stato di libertà. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, è stata svolta con estrema rapidità e ha evidenziato la brutalità, la gravità e la efferatezza delle violenze commesse, che avrebbero potuto essere ripetute su altre donne. Le due giovani inglesi erano a Pisticci in vacanza, ospiti dei parenti di una di loro, figlia di un imprenditore lucano che da anni vive nel Regno Unito. Via Facebook anche la sindaca di Pisticci, Viviana Verri, aveva invitato chiunque sapesse qualcosa sull'accaduto a parlare. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Colleferro domani i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto in seguito a un brutale pestaggio. Emergono intanto nuovi particolari dagli interrogatori in corso. Si terranno domani al campo sportivo di Pagliano, il suo paese, i funerali di Willy Monteiro, il 21enne italiano di origini capoverdiane ammazzato di botte nella notte di una settimana fa a Colleferro. Altri ragazzi, oltre a quelli citati nell'ordinanza del GIP, raccontano di una violenta e immotivata aggressione e le accuse a carico dei quattro arrestati di Artena, Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggio e Mario Pincarelli, potrebbero essere aggravate dalla procura da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. La testimonianza di Valerio raccolta da Sky TG24. Sono scesi dalla macchina queste tre quattro persone e si sono accaniti contro tutti quelli che erano lì in quel momento, e a rimetterci la pelle è stato Willy. L'hanno picchiato prima in tanti e poi dopo, quando stava per terra, gli hanno dato un calcio. Chi erano? I fratelli Bianchi? Sì. Una volta che gli ha dato il calcio al petto, gli ha dato un cazzotto e è rimasto per terra. Non so se lui o l'altro fratello gli ha dato l'ultimo calcio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero, adesso, nelle prossime ore, delle navi finanziate dall'Unione Europea saranno in Grecia per dare rifugio ai richiedenti asilo più vulnerabili dopo l'incendio che ha distrutto il campo di Moria a Lesbo. Lo ha annunciato poco fa il vicepresidente della Commissione Europea. Sale ad almeno 10 il bilancio dei morti negli incendi che sono avvenuti nel nord della California, lo riferiscono le autorità americane, parlando anche di 16 dispersi. In Oregon ci sono 500.000 persone che sono state evacuate per le fiamme. E oggi, 11 settembre, gli Stati Uniti ricordano l'attentato alle Torri Gemelle. A New York le celebrazioni in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico quest'anno saranno sottotono a causa della pandemia. Le commemorazioni al World Trade Center vedranno come protagoniste solo le famiglie delle vittime. Nessun palco è stato allestito, ci saranno decine di distributori di disinfettanti per le mani, tutti i presenti dovranno fare attenzione al distanziamento sociale. La lettura dei nomi delle vittime è stata registrata e sarà trasmessa in streaming. Il museo dell'11 settembre riapre per l'occasione dopo 6 mesi di stop. A non cambiare saranno solo il suono delle campane per ognuno degli attacchi terroristici e i fasci di luce al posto delle torri gemelle che si alzeranno in cielo. Sarà presente il vicepresidente americano Mike Pence, mentre Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden saranno in 2 eventi a Shanksville, in Pennsylvania, la città dove si schiantò il volo United 93 con i dirottatori a bordo, nel quale persero la vita 37 persone. Nel pomeriggio al consolato italiano di New York si svolgerà una cerimonia nella quale verranno letti i nomi delle vittime italiane e italo-americane degli attentati alle Torri Gemelle. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Siamo allo sport. Motori accesi da oggi in Italia, al via le prove libere di Formula 1 e MotoGP. Ci racconta tutto Giovanni Capuano. Sì, buongiorno, ultimo weekend senza campionato, ma sarà comunque un weekend ricchissimo, soprattutto nella pagina motori, una pagina che sarà molto italiana. Da oggi il via al fine settimana di Formula 1 e MotoGP, in entrambi i casi si corre da noi, al Mugello per un inedito Gran Premio della Toscana. Stiamo parlando di Formula 1, sarà anche la 1000ª gara Ferrari, nel momento più buio e anche col piccolo sgarbo ieri dell'Aston Martin che ha annunciato Sebastian Vettel per il 2021, togliendo così i riflettori alla Ferrari per le sue celebrazioni. Non un problema insormontabile, ma è un altro segnale di una stagione in cui le cose non vanno per il verso giusto. E poi la MotoGP si corre a Misano Adriatico domenica, mondiale pazzo senza Marquez, da verificare le ambizioni di Dovizioso, e con Valentino Rossi che ha smentito le voci sul suo possibile ritiro a fine anno e a giorni arriverà al rinnovo di contratto per il 2021. Parliamo di calcio. Calcio italiano alle prese ancora con il caso della positività di De Laurentiis, che ieri si è trasferito a Roma per ulteriori controlli. Tutti i presidenti sono in isolamento o in attesa di tamponi, ci sono polemiche e irritazioni da parte di diversi club. In questo weekend, l'ultimo, come detto, senza la Serie A, parte anche la Premier League. La Premier League, che è il campionato più ricco e globale del mondo e dunque dà un segno di ripartenza della stagione del pallone. Ne riparleremo anche alle 14 in tutti i convocati. A te. Grazie Giovanni. 13 e 13 minuti è tutto per la prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal rapporto trimestrale sul mercato del lavoro, perché dietro al calo di quasi 500.000 posti nel secondo trimestre ci sono differenze di genere, differenze nord-sud, maggiormente penalizzati ancora una volta i più giovani. 349-238-6666. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Istat: crollo dell'occupazione, in un anno si sono persi 840.000 posti di lavoro. Commercialisti vicini alla Lega ai domiciliari. Salvini dice sono onesti, ma per il GIP l'accordo corruttivo è provato. Emergenza coronavirus, Conte, dobbiamo avere fiducia nella ripartenza, siamo più avanti di altri paesi. Fine settimana di motori, al via le prove libere a Mugello e Misano. Alle 13:17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Come anticipato, cerchiamo di capire meglio cosa si nasconde dietro ai dati Istat sulla occupazione, l'indagine sul mercato del lavoro, un rapporto trimestrale. Lo facciamo con la dottoressa Federica Pintaldi, ricercatrice Istat, responsabile proprio di questo rapporto sul mercato del lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, Pintaldi. Allora, i dati, diciamo, che saltano agli occhi, il dato principale è il calo nel secondo trimestre dell'anno di 470.000 posti di lavoro, misurato nell'arco di un anno, quindi diciamo lo stesso trimestre rispetto al trimestre di un anno fa. Il calo è molto più importante perché ci sono anche poi gli altri mesi che hanno inciso, quelli del lockdown, e quindi si arriva a 840.000 posti di lavoro persi in un anno. Cosa ci segnala? Sapevamo che c'era stata, insomma, una grossa frenata, una grossa crisi e perdita anche di posti di lavoro. Cosa ci segnalano di nuovo questi dati Istat, se possibile, Pintaldi? Sì, allora, certo, il secondo trimestre è quello più legato alla fase di emergenza sanitaria e di lockdown. Quello che ci segnala quindi il confronto annuale, 841 in meno, è che il calo è concentrato in particolare fra i dipendenti a termine, e fra quelli soprattutto che hanno una durata dei rapporti di lavoro non superiore ai 6 mesi. E questo a cosa ci fa pensare? Anche c'è un approfondimento a pagina 16, che sì. Da un lato noi abbiamo avuto che il blocco dei licenziamenti, tutti gli ammortizzatori messi in campo come la cassa integrazione, hanno comunque sostenuto l'occupazione. Però chi da un lato aveva un contratto breve, sì, e poi è terminato, a quel punto magari non è stato rinnovato o non ha trovato un altro lavoro. Infatti noi un dato importante che abbiamo è che se consideriamo i primi 6 mesi dell'anno del 2020 confrontati con i primi 6 mesi dell'anno 2019, sì, troviamo che c'è una diminuzione sia di chi ha iniziato il lavoro negli ultimi 6 mesi e sia di chi, quindi questo è diminuito, mentre aumentano quelli che hanno concluso il lavoro negli ultimi 6 mesi. Quindi c'è anche un discorso legato proprio alla parte di flussi di attivazione e cessazione di lavoro. Alcuni lavori, finché non è iniziata la stagione, non sono stati proprio assunti. Quindi noi questa diminuzione la troviamo anche, soprattutto dovuto a questo. Consideriamo che sono 677.000 il calo di dipendenti a termine sul totale. Quindi 8 su 10 sì, del calo sono dipendenti a termine. Quindi insomma questo calo concentrato anche in una fascia, se ho capito bene, under 35 e in particolare sì, con contratti a tempo determinato, si può dire, per semplificare, che sono i contratti di lavoro più precari, i primi che le aziende hanno dovuto tagliare, salvaguardando invece magari l'occupazione più adulta, con contratti più tutelati? Allora, lì il discorso non è tanto che è giovane, il fatto che giovani più spesso hanno un lavoro a termine. E comunque chi aveva un lavoro a termine col blocco dei licenziamenti, se il contratto a termine durava un anno, comunque non è che sono stati licenziati, ma se io ho un contratto che durava 2 mesi, magari che iniziava a gennaio, a febbraio, poi a marzo non ha avuto nuovi contratti. Non è stato rinnovato, certo. Quindi siccome i giovani, sì, sono due fattori, che i giovani più spesso svolgono lavori a termine e giovani, i settori dove sono più presenti sono proprio commercio, albergo e ristorazione, che sono i settori che hanno subito più di più. Senta, colpiscono anche alcune altre articolazioni interne di questi dati, in particolare le differenze tra il nord, dove il calo dell'occupazione è minore, al sud invece è molto maggiore, anche al centro, e poi anche per quanto riguarda il tema dei laureati, mi sembra di vedere che ci sia un calo dell'occupazione maggiore tra i laureati, che non è un dato, diciamo, positivo. Naturalmente non è un dato positivo per nessuno quando si perde il lavoro, però come interpretare questo aspetto in particolare? Allora, nel riguardo centro e mezzogiorno, possiamo dire che sulla parte settoriale, allora nel mezzogiorno è più presente il lavoro a termine e questo non ha aiutato, e l'altro invece è la concentrazione nei servizi, perché comunque l'industria ha tenuto, Quindi Mezzogiorno, avendo meno industrie, essendo più concentrata nei settori che hanno avuto più problemi, è quello che è andato peggio. Riguardo al titolo di studio, se noi controlliamo i tassi, sì, possiamo dire che comunque vi è una fortissima differenza e il titolo di studio rende, perché noi se controlliamo, se vediamo i valori assoluti, comunque c'è un aumento del livello di istruzione, quindi i laureati tendono a aumentare un po' dappertutto. In termini di tasso, dobbiamo tenere presente che nel secondo trimestre, allora, il tasso di occupazione per chi al massimo ha la licenza media è del 42,8%, sì, e ha fatto meno 1,4 punti. Quello dei laureati è 78% e ha fatto meno 2 punti. È vero che è un po' di più, però è anche vero che un conto è partire da 78, un conto è partire da 42. Cioè, c'è un effetto generale del titolo di studio e della laurea sull'effetto occupazione, quindi un effetto positivo, una correlazione positiva. Poi in questa fase di calo c'è stata un'accentuazione invece maggiore in questa fascia, che però dei laureati, che però partiva da più in alto. Un'ultima cosa le voglio chiedere, Pintaldi, è questa: anche Confindustria oggi parla di un rimbalzo nel terzo trimestre del PIL del 9%. Già qualche tempo fa i dati di luglio dell'occupazione, anche i vostri dati, erano incoraggianti, positivi. Si parla di una ripresa che è in corso. Quanto tempo potrebbe essere necessario per recuperare i livelli dell'occupazione, se sarà possibile farlo? Allora, rispetto alla ripresa, questo sì è importante, perché a luglio abbiamo avuto comunque un aumento rispetto a giugno di 85.000 occupati, quindi si nota una positiva reazione del mercato del lavoro alla ripresa dei livelli di attività economica come la produzione industriale. Per ritornare ai livelli di fine 2019, e questo bisogna vedere l'andamento di aspetti sia economici sia legati alla pandemia in qualche modo, quindi non è che abbiamo modelli che direttamente non è possibile fare alcun tipo di previsione. Mi sembra chiaro. Grazie Federica Pintaldi dell'Istat, grazie per essere stata con noi. La domanda era cercare di guardare un po' in prospettiva. I dati di luglio sono positivi, vedremo poi se saranno confermati entro la fine dell'anno e quanto ci porteranno fuori dalla crisi. Adesso invece alle 13:25 minuti l'anticipazione del reportage di domani. Lunedì inizia la scuola, si riapre, la famosa riapertura della scuola, se ne occupa il reportage di Maria Piera Ceci, in onda domani mattina alle 8:15. Allora sentiamolo in un'anticipazione assieme al dirigente scolastico Domenico Squillace, diventato noto per soprattutto tra i suoi studenti per una commovente lettera che aveva indirizzato proprio ai ragazzi durante il lockdown. Mi fa vedere un'aula? Vieni con me a farmi vedere un'aula? Allora, quest'aula c'ha 4, 8, 12, 16, 20 posti. Noi l'indicazione di un metro di distanza l'abbiamo, come dire, per maggior tutela, allungata a 1,20 m. Tra l'altro banchi che sembrano nuovissimi. No, non sono nuovissimi, sono i nostri banchi. Noi abbiamo da sempre i banchi monoposto, l'abbiamo sempre avuto. Non vedo un banco a due posti da quando ero alunno alle scuole medie. Non vedo ancora disinfettanti, però insomma arriverà. Cioè, no, come non lo vedo? Eccolo qua. Noi abbiamo comprato degli simpatici spruzzini da giardinaggio. Ogni insegnante pulirà la cattedra alla fine della sua ora, perché arriva per la tastiera del computer. Gli alunni puliranno il banco a fine giornata. Insomma, si è fatto il possibile, ma quanto è preoccupato per questa benedetta data del 14? Io sono ragionevolmente preoccupato, ma ragionevolmente ottimista, nel senso che è una cosa con cui dovremo convivere. La scuola italiana muove 8 milioni di persone. 8 milioni di persone sono il 12% della popolazione. Vuole che questo 12% sia immune totalmente? Non è possibile. Ci saranno dei casi, ce ne saranno diversi di casi. Con la tanta pazienza ci toccherà chiudere alcuni giorni e noi chiuderemo alcuni giorni. Che cosa dice ai ragazzi che stanno finalmente tornando a scuola, se ne vedono nell'aula accanto, stanno facendo i corsi di recupero? Beh sì, per noi è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Ai ragazzi dico, armatevi di pazienza, un po' di pazienza, ricominciamo con entusiasmo, con voglia di fare, e state alle regole dentro e fuori dalla scuola. E allora vi ricordo il reportage domani mattina alle 8:15 sulla scuola, e poi lunedì seguiremo la riapertura con un Radio Day, quindi se volete seguire, diciamo così, minuto per minuto come andrà la riapertura della scuola lunedì prossimo, fatelo su Radio 24. Adesso Mostra del Cinema di Venezia, un nuovo film che sarà tra poco nelle sale, l'esordio alla regia di Jasmine Trinca. L'attrice ha presentato nella sezione Orizzonti il suo cortometraggio Being My Mom, dedicato al rapporto con la madre. Una madre e una figlia, interpretata da Alba Rothbacher e Mayan Conti, che attraversano una Roma deserta con una pesante valigia, è quello che ha raccontato Jasmine Trinca al microfono di Marta Cagnola. Come mai? Un po' perché non è che io pensavo di fare la regista, no, in assoluto, e quindi mettere in scena qualcosa e soprattutto per provare a raccontarlo con uno sguardo che potesse essere mio proprio e che dicesse qualcosa, sono partita da una cosa molto intima, no? Che ha caratterizzato e, se vuoi, anche condizionato grossa parte della mia esistenza, questo rapporto viscerale con la mia mamma, insomma, che è la donna che mi ha cresciuto. E quindi ci ho messo un po', sono successe un po' di cose, mi è nata una figlia, ho perso la mamma, sono passati 10 anni, no? Però era arrivato il momento, insomma, di provare a guardare in un altro modo quello che era stato tra lei e me, un rapporto fortissimo, chiaramente, dove però a volte io mi sono ingiustamente ritenuta, come dire, la mamma di mia mamma, come dice il titolo di questo corto. E invece è stato un modo per dire che ho preso una bella toppa e che in qualche modo invece lei è stata una mamma più che presente, una mamma che ha nutrito e che quindi ha fatto quello che veramente, insomma, serve per crescere bene una figlia. E va bene, rientriamo dalla mostra di Venezia, ci fermiamo in realtà per una piccola pausa, le informazioni di borsa, poi di nuovo torniamo con le notizie, i titoli e poi andremo in Francia, dove c'è attesa oggi per possibili misure restrittive per contrastare il coronavirus, che in quel paese sta rialzando la testa con oltre 10.000 contagi al giorno. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Commercialisti vicini alla Lega ai domiciliari. Salvini: sono onesti, ma per il GIP l'accordo corruttivo è provato. Istat: crollo dell'occupazione nel secondo trimestre, si sono persi quasi 500.000 posti. Confindustria vede un rimbalzo del 9% del PIL nel terzo trimestre. Emergenza coronavirus, Conte: dobbiamo avere fiducia nella ripartenza, siamo più avanti di altri paesi. In Francia il governo potrebbe decidere oggi misure più restrittive per contrastare l'aumento dei casi, tra poco in collegamento con Parigi. Motori accesi in Italia, al via le prove libere di Formula 1 a Mugello e della MotoGP a Misano. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Un aggiornamento per quanto riguarda il calcio, il mondo del calcio. Dopo la positività di De Laurentiis, il Napoli ha sottoposto ai tamponi i suoi giocatori e sono tutti negativi i tamponi cui sono stati sottoposti ieri i giocatori del Napoli. Quindi, diciamo, l'attività calcistica procede regolarmente con un amichevole in programma oggi pomeriggio. I vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore ci chiede, a proposito dei dati sull'occupazione, dati Istat che segnalano un calo di 470.000 posti nel secondo trimestre dell'anno, dice: ma non c'era il blocco dei licenziamenti? Dice questo ascoltatore. È vero, il blocco c'è, ma ci sono i contratti anche che non vengono rinnovati, contratti in scadenza, ce l'ha spiegato bene la ricercatrice dell'Istat, contratti che erano in scadenza e non sono stati rinnovati. È il momento del punto, del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La BCE e la Fed hanno deciso di seguire strade diverse, anche se entrambe continuano a iniettare liquidità ai rispettivi governi perché la pandemia per ora assicura così. Le due più grandi banche centrali sembrano però segnare un cambio di passo. La Fed ha deciso di abbandonare il totem dell'inflazione al 2%, per anni baluardo delle scelte di politica monetaria americane, e di continuare invece a creare una massa inaudita di denaro, anche se avrà impatto sull'aumento dei prezzi. La BCE non ha reagito, eppure Questo ha come conseguenza il deprezzamento del dollaro, che fa degli Stati Uniti una terra d'elezione per i loro esportatori, ma al contrario luogo difficile da espugnare per chi punta a entrare su quel mercato. Al contempo l'euro sta salendo a ritmi veloci verso soglie che ne fanno una supervaluta sempre più onerosa per chi esporta, e l'Italia, va ricordato, punta tutto sul rilancio delle sue esportazioni. Come scritto nei manuali, le banche centrali non hanno mai come obiettivo l'influenza sui cambi. Ciò che non si dice però è che i banchieri centrali si occupano, e come, dei cambi quando si incontrano nei super riservati meeting confidenziali a Basilea, nella sede della Banca dei Regolamenti Internazionali, dove di fatto si fanno e disfano le cosiddette guerre valutarie. Forse alla prossima riunione di Basilea il tema dovrà essere affrontato, perché bisogna sapere se tra USA ed Europa è davvero finita la pace valutaria. E va bene, adesso, come anticipato, andiamo in collegamento con Parigi, con il collaboratore del Sole 24 Ore, Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, c'è attesa per, da un lato, per quello che potrebbe decidere l'organismo deputato appunto a valutare la situazione dell'emergenza coronavirus in queste ore, il Consiglio di difesa, e perché insomma nelle ultime ore, negli ultimi giorni c'è stata un'impennata di casi di contagio insomma in Francia. Danilo, intanto mi confermi che è riunito il Consiglio di difesa proprio in questi momenti? Esattamente, il Consiglio di difesa è riunito e sono attese degli annunci per le 16 che dovrebbero essere fatti dal Ministro dell'Interno Olivier Véran. Io intanto in questo momento mi trovo a Place de la République, una zona abbastanza centrale di Parigi dove c'è l'obbligo di mascherina negli spazi all'aria aperta, e posso confermarvi che ormai non si vede, tutti i passanti, tutti i parigini la portano. Sembra che insomma dopo questi ultimi dati annunciati negli ultimi giorni i francesi abbiano deciso, siano convinti ad alzare la guardia, ad alzare la soglia di attenzione. Sì, ci ricordi diciamo di che entità è stato insomma questa impennata di casi di contagio, quasi 50.000 in una settimana, se ho capito bene? Si parla, ti chiedo espressamente, di una seconda ondata in Francia o no ancora? Esattamente, 50.000 in una settimana, solamente ieri ne sono stati annunciati circa 10.000, ormai la seconda ondata sembra essere confermata. È interessante notare che in questi ultimi giorni il Consiglio scientifico, attraverso il professor Delfassi, che è un po' il presidente, la guida del Consiglio, ha puntato il dito contro il governo. Ricordo, il Consiglio scientifico è un organo che è stato creato per accompagnare l'Eliseo, accompagnare il presidente Emmanuel Macron durante la crisi, e appunto per consigliarlo. Ma nonostante questo il Consiglio ha attaccato il governo, ha detto che non ha fatto abbastanza, le misure di quarantena sarebbero dovute entrare in vigore prima, e non c'è stato un rispetto abbastanza adeguato delle misure. Insomma, quindi siamo in buona compagnia quando assistiamo anche in Italia al rimpallo di responsabilità. Che altro, questo accadeva qualche settimana fa, adesso diciamo le polemiche sono un po' più sopite, però insomma tra in Italia, soprattutto tra governo e regioni, ma anche con insomma gli organismi scientifici, accade in America, accade anche in Francia. Danilo Ceccarelli, la situazione per quanto riguarda invece le scuole, qual è la situazione? Perché su questo ricordiamo che il presidente Macron aveva puntato tanto, l'aveva cercato di farle ripartire il prima possibile, poi adesso le scuole sono riaperte in Francia da quanto? Esattamente, le scuole hanno riaperto esattamente il primo settembre, e la situazione è molto critica. Ad oggi si contano 32 istituti che hanno chiuso per dei casi riscontrati di coronavirus al loro interno, tra gli studenti o magari anche tra il personale scolastico. Nei casi in cui un istituto viene chiuso, nei giorni scorsi il governo ha annunciato che sono stati previsti degli aiuti per i genitori, per le famiglie che dovranno rimanere a casa e non saranno obbligati a vedere i loro bambini. Di nuovo. Secondo un'associazione, SOS Médecins, SOS Medici, si riscontrano ogni giorno nelle scuole francesi circa 1.000 casi sospetti di coronavirus, quindi un ritmo un ritmo molto, molto alto. Ma cosa succede in un caso di contagio all'interno delle scuole? Cosa prevedono le regole? Perché in Italia che le scuole non sono ancora riaperte, ma insomma, è detto che si valuterà caso per caso. In alcune situazioni si chiuderanno soltanto le classi. Quando dici scuole chiuse, intendi proprio tutta la scuola? Esattamente. Sì, esattamente, tutta la scuola. Questo sta ovviamente, come dicevo, sta portando a una chiusura quotidiana di molti istituti. Il governo ha inoltre imposto ai genitori di presentarsi con un certificato medico quando si riscontrano già i primissimi sintomi, che può essere raffreddore, possono essere dolori di stomaco, e questo sta creando anche molti problemi perché siamo in una stagione in cui i bambini sono affetti particolarmente da influenze, raffreddori, mal di pancia, quindi questo sta provocando una saturazione anche delle pratiche per ottenere questi certificati medici dai medici di base, dai medici di famiglia. Danilo, l'ultima cosa che ti chiedo, la decisione dovrebbe arrivare nel pomeriggio su queste eventuali nuove misure restrittive, quali sono le ipotesi che si fanno, cosa è stato ventilato alla vigilia, cosa potrebbe accadere? Ma tra le ipotesi più accreditate c'è il taglio della quarantena, diciamo da 14 giorni a 7 giorni, che ricordo era stato anticipato nei giorni scorsi da il ministro della salute Olivier Véran, poi confermato anche dal presidente del consiglio scientifico. A questo poi ci dovrebbe anche aggiungere un ritorno della quarantena a livello locale, una quarantena mirata. Questa è una notizia che è stata anticipata ieri dall'emittente France 2 e confermata, sembra essere confermata anche dall'Eliseo. Ci sono alcune città che sono in uno stato molto critico, oltre a Parigi c'è anche Marsiglia, si parla di ospedali che cominciano a essere saturi a Marsiglia, quindi in queste zone la circolazione del coronavirus è veramente molto forte. Quindi insomma, dopo una prima fase dove le misure restrittive, che adesso poi erano state allentate nonostante il ritorno della mascherina anche all'aria aperta a Parigi che ci stavi raccontando, una prima fase caratterizzata da misure nazionali, adesso il governo, se abbiamo capito bene, punta a misure anche a forme di lockdown locali, zona per zona, dove poi si creeranno i casi. Grazie Danilo Ceccarelli, staremo a vedere come andrà a Parigi, l'attesa terminerà nel primo pomeriggio attorno alle 16. 13:44, facciamo un piccolo break naturalmente come sempre per le informazioni sul traffico, poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba, chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.